Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:08 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: Alitalia ultimi atti. Domani dovrebbe esserci infatti l'atto conclusivo, ma ne parleremo anche oggi. C'è il Consiglio di Amministrazione e soprattutto ci sono anche novità sul fronte della partecipazione delle Poste Italiane al progetto Alitalia nel suo complesso. Lupi ha detto, il ministro Lupi, abbiamo fatto il possibile, ora tocca ai lavoratori. Nessuno ha chiesto alle Poste di investire, Poste ha investito perché credeva nel progetto industriale. Domani, dicevamo, il giorno della verità, perché l'assemblea degli azionisti di Alitalia delibererà sull'operazione, oltre che dover approvare il contratto con Etihad. C'è anche il consiglio di amministrazione di Poste Italiane. Tra i temi non è escluso appunto il dossier Alitalia. Poste dovesse restare fuori dal nuovo impegno finanziario, si sta studiando il coinvolgimento di altri soci, perché mancherebbero 40 milioni all'operazione, quelli che avrebbe dovuto mettere Poste Italiane, e le banche hanno fatto sapere chiaramente che già accettano, diciamo, una riduzione del credito che hanno nei confronti dell'Italia, ma non sono disponibili a entrare con nuovi soldi in all'Italia. Ci potrebbe essere, tra le ipotesi circolate, anche quella di una società cuscinetto, diciamo, partecipata dalle Poste, della vecchia Alitalia, in cui Etihad entrerebbe al 49%. Sono, diciamo, così, alchimie societarie. La cosa importante è che domani, dell'ultimo giorno possibile, devono essere approvate tutte le operazioni per arrivare poi all'ingresso di Etihad. E questo è un fronte. L'altro fronte invece riguarda ancora una volta le previsioni economiche, ma ne parleremo anche sotto forma di borsa e di andamenti anche borsistici. Perché dico le previsioni economiche? Perché da questo punto di vista è appena uscito il Fondo Monetario Internazionale con le stime sull'Italia, anche lui, dopo Centro Studi Confindustria, cito in ordine sparso Banca Italia, REF. Anche il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime sulla crescita dell'Italia, non si andrà oltre lo 0,3% contro uno 0,6% stimato ad aprile e contro lo 0,8% che tuttora il governo mantiene come previsione di crescita. L'abbiamo spiegato in questi giorni, probabilmente il governo aspetta il dato del PIL sul secondo trimestre, quello che uscirà il 3 agosto, per poi fare un'operazione così, verità, trasparenza, dire attenzione, non ce la faremo, l'Italia non crescerà come ci attendevamo. E il Fondo Monetario tra l'altro stima che l'anno prossimo vi sarà una crescita dell'1,1%. Faccio notare che noi l'anno scorso abbiamo fatto meno 2 quasi, meno 1,9, nel 2012 meno 2,4, quest'anno un più 0,3, è chiaro che mostrerebbe un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma non sarebbe quella crescita un minimo strutturata che ci si attendeva a inizio anno, quindi lo 0,8, l'1%. Devo dire che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato anche tutta la stima sulla crescita mondiale, non oltre il 3,4%, e anche per quello che riguarda l'area euro non si andrà quest'anno oltre l'1,1%. Resta il tema di cosa farà il governo a settembre, ma dico, abbiamo tempo per analizzarlo, anche se a noi sembra che qualcosa debba essere fatto. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa puntata, oggi su Sole 24 Ore trovate una lunga intervista. Il tema riguarda soprattutto i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, in particolar modo delle piccole e medie imprese. Oggi, dicevo, su Sole 24 Ore una lunga intervista di Gianni Trovati con il sottosegretario dell'economia Giovanni Legnini. Ascolteremo alcuni passaggi proprio sul sui 56 miliardi che vanno pagati entro settembre, perché 56 miliardi sono stati già stanziati, vanno tutti pagati alle imprese entro settembre. E in questo modo cerchiamo anche di rispondere a chi in queste settimane ha continuato a chiederci via mail, via sms, aggiornamenti, novità sul fronte del pagamenti che le imprese aspettano da parte della pubblica amministrazione. Ancora poco fa il Financial Times è uscito qualche minuto fa con un'indiscrezione secondo cui sarebbero in corso trattative tra Fiat e Peugeot, quindi Fiat Chrysler e Peugeot, per valutare un accordo e creare la quinta casa automobilistica mondiale con 8 milioni di auto l'anno. Sempre secondo il Financial Times, le trattative sono in fase preliminare, i due gruppi comunque avrebbero avuto contatti informali all'inizio dell'anno, quindi già a gennaio. Faccio notare che ieri Marchionne ha definito così fantasie le operazioni con Volkswagen, ma ha escluso anche altre trattative con altri soci. Però, insomma, questa è l'indiscrezione che riporta oggi il Financial Times. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbiamo anche alcune notizie che riguardano la gestione dei soldi pubblici, ma anche una buona notizia che viene questa volta dalla Sicilia e riguarda il caso di quel dirigente super pagato. Arrivava a guadagnare 600.000 euro l'anno. Abbiamo fatto il calcolo, sono circa 1.500 euro al giorno. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms. La borsa, bene oggi Milano, meglio, decisamente meglio delle altre borse europee, più 2%, con Francoforte che guadagna lo 0,20, Londra lo 0,16, Parigi lo 0,60, gli Stati Uniti più 0,12, questo grazie, come spesso avviene in questi casi, alle banche, ma anche ad a un titolo come Azimut più 7%, poi il Monte dei Paschi più 6,60 e Mediaset più 6,60, la Popolare Emilia Romagna più 6,20, la Pop Milano più 5,5, Ubibanca più 5, il Banco Popolare più 4,70, Unicredit più 3,5, come Intesa San Paolo, Mediobanca più 3%, come Mediolanum e Unipolsai. Bene anche Atlantia più 2,44, A2A più 2, come Fiat, Exor più 1,60, di negativo c'è Saipem che perde il 2% e Steam Microelectronics meno 1, CNH meno 0,70%. Partiamo come sempre dalle notizie internazionali. Per quello che riguarda gli Stati Uniti è arrivato un buon dato sui sussidi alla disoccupazione ai minimi dal 2006, le richieste della scorsa settimana sono calate infatti di 19.000 unità, le domande per il sussidio di disoccupazione. Ancora invece le vendite di nuove case hanno fatto un meno 8% sempre negli Stati Uniti, sotto le attese. Sta volando in borsa Facebook invece, dopo i conti, ha toccato un nuovo record a 76,03 dollari per azione, il 6,7%, perché Facebook, la notizia è arrivata ieri in serata, ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in crescita a 791 milioni di dollari, è più del doppio di quanto non fece un anno fa. I ricavi sono saliti a 2 miliardi e 900 milioni di dollari contro 1 miliardo e 800 milioni del secondo trimestre 2013, oltre le attese di tutti gli analisti. Infatti il numero uno, il creatore Mark Zuckerberg, ha detto: la nostra comunità continua a crescere, vediamo molte opportunità, abbiamo avuto un trimestre migliore di ogni attesa. Sempre le trimestrali americane, General Motors crolla invece l'utile, meno 85%, è calato a 190 milioni di dollari contro 1 miliardo e 260 milioni del secondo trimestre 2013. A pesare sono stati i maxi richiami di automobili costati alla General Motors 1,5 miliardi di dollari, e General Motors ha accantonato, cioè ha messo da parte 400 milioni di dollari per pagare le vittime dei richiami. Restiamo in tema di case automobilistiche. Ford ha visto salire l'utile del trimestre, i ricavi sono a 37 miliardi e mezzo, l'utile netto è in aumento del 6% a 1 miliardo e 300 milioni di dollari, tutti dati migliori delle attese. Allora, veniamo all'Europa. Mentre Hans Weidmann, il numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca, di nuovo ha messo in dubbio il programma di acquisto condizionato di titoli di Stato da parte della BCE a paesi che dovessero andare in crisi. Non ho mai dubitato che il programma avrebbe calmato i mercati, ma la cartina tornasole per le banche centrali deve ancora arrivare. Si mostrerà se e quando l'unione monetaria diventerà più stabile e resistente attraverso l'OMT, che cancella la divisione dei ruoli tra politica, economia e, tra politica economica e monetaria. Vabbè, se ne faccio una ragione anche vi, mai. Andiamo avanti invece, per quello che riguarda la fiducia dei manager europei nei settori manifatturieri dei servizi, è un indice che si chiama Market, riferito a luglio, ha registrato un progresso leggerissimo. Faccio notare però che tutti gli indicatori di fiducia a fine anno hanno, stando a quello che ci hanno raccontato gli economisti stessi, tratto in inganno gli economisti, perché una volta l'indicatore di fiducia in aumento sia delle imprese che dei cittadini stava a significare un atteggiamento più favorevole, positivo nei confronti anche dei consumi e degli investimenti, e quindi lasciava presagire un aumento dei consumi e degli investimenti. Adesso invece ci si è accorti che un indicatore di fiducia in aumento significa solo immaginare che la tua situazione non peggiorerà, non che migliorerà, ma che non peggiorerà. E infatti lo vediamo anche dai dati in Italia diffusi oggi dall'Istat. Intanto in Italia è peggiorata di nuovo la fiducia dei consumatori a luglio, in calo tutte le componenti, anche i giudizi e le aspettative sulla situazione economica della famiglia dell'intervistato. Ma venendo ai dati, l'Istat oggi fornisce i dati sul commercio nel mese di maggio. Allora, gli alimentari hanno fatto meno 1,2 rispetto ad aprile, battuta dal resto per tutto il commercio dettaglio, che cala dello 0,7% e dello 0,5% rispetto al 2013, già un anno molto debole. Praticamente ad aprile è andato un po' meglio, ma c'era solo l'effetto Pasqua. Dicevo, i prodotti alimentari meno 1,2, e il dato è particolarmente significativo e brutto, perché prima di toccare i prodotti alimentari uno taglia altri generi di solito. È minore per i non alimentari, che però già avevano subito molte contrazioni in questi anni, meno 0,3%. L'aumento riguarda il gruppo calzature, articoli in cuoio da viaggio, le flessioni però più 1%. Le flessioni maggiori colpiscono i gruppi telecomunicazione, telefonia, cartoleria, libri, giornali, riviste, meno 3% e meno 3,8% telecomunicazioni e telefonia. Quanto ai luoghi dove si consuma, tengono solo i discount, a dimostrazione che la crisi morde sempre di più i consumi. Gli unici esercizi alimentari che danno segnali positivi, più 2,4%. I negozi di piccoli superfici soffrono, meno 1,1%. La grande distribuzione è sostanzialmente invariata. Faccio notare che un calo dello 0,5, dello 0,7 sul mese, dello 0,5 sull'anno può sembrare poco, ma nel mondo dei consumi è un calo molto forte, perché già parliamo di consumi che negli anni scorsi sono stati notevolmente ridimensionati, per cui, quindi non, di superfluo nella maggior parte di consumi cosiddetti superflui, nella maggior parte delle famiglie italiane non è rimasto nulla. Una buona notizia riguarda invece la soppressione dal disegno di legge sulla competitività della norma sull'anatocismo, quindi il pagamento degli interessi sugli interessi, la capitalizzazione degli interessi, come si chiama in gergo, è stata soppressa dal decreto competitività in esame dalle commissioni del Senato. E ancora invece, finito l'esame al decreto da parte delle commissioni competenti, le altre piccole modifiche riguardano lo spalma incentivi e la doppia soglia all'OPA, portata non al 20 ma al 25%. E che ci sia una piccola, modesta ripresa senza creazione di posti di lavoro, ce lo dice anche la Banca d'Italia, che ha stimato come le imprese si attendano per quest'anno una ripresa del fatturato più 2%, ma la dinamica, secondo i programmi degli imprenditori intervistati, la dinamica dell'occupazione resterebbe negativa, meno 1%. Tant'è che anche il presidente del Comitato Tecnico per il Fisco di Confindustria, Andrea Bolla, in audizione sulla delega fiscale in Commissione Finanze, ha detto, attenzione, si intravedono timidi segnali di una possibile ripresa che allo stato attuale si prospetta estremamente lenta e fragile, il contesto resta molto difficile, non basta più l'ordinaria amministrazione, serve uno sforzo eccezionale che abbia al suo centro la leva fiscale, tradotto la riduzione della pressione fiscale su imprese e lavoratori, in primo luogo il famoso cuneo fiscale. Ancora per quello che riguarda la vicenda, adesso arriviamo anche all'atteggiamento, diciamo, a quello che è successo in Parlamento, anzi parliamone subito di quello che è successo in Parlamento, perché oggi il Parlamento ha deciso il tetto agli stipendi dei suoi dipendenti, un po' come è capitato al Parlamento siciliano sui suoi dirigenti e dipendenti, la famosa discussione che abbiamo avuto in diretta la settimana scorsa con il presidente Ardizzone, che riascolteremo come da promesse a inizio agosto, il primo d'agosto se non ricordo male, venerdì. Allora, è passato per i dipendenti di Camera e Senato un tetto retributivo che, alla luce di quanto ho appena raccontato sulle difficoltà delle famiglie italiane, è comunque un tetto alto. 240.000 euro per fare il dipendente della Camera e del Senato come tetto massimo non è un tetto basso, al netto della contribuzione previdenziale, per cui c'è anche un altro 8,8% di contributi da sommare al tetto. Ora, uno immagina, visto che ne abbiamo parlato molte volte, ci sono 1.500 lavoratori a Montecitorio che costano 310 milioni, poi ci sono altri 227 milioni delle spese per i pensionati, fanno mezzo miliardo, che praticamente è metà del bilancio della Camera, che è di 1 miliardo di euro all'anno, e tra l'altro i 630 deputati costano il 25%, quindi i dipendenti della Camera costano il 50% del totale, oltre 500 milioni, e il doppio dei deputati. Barbieri, elettricisti, autisti, centralinisti entrano alla Camera con uno stipendio imponibile lordo di 30.000 euro l'anno come stipendio di ingresso, a cui si aggiungono contributi previdenziali per altri 5.300 euro dopo 10 anni, e la retribuzione praticamente dopo 10 anni sale a oltre 50.000 euro. A fine carriera, un barbiere o un centralinista con 40 anni di servizio guadagna 136.000 euro al netto di altri 24.000 euro di contributi previdenziali. Un barbiere, un centralinista. Allora, per i ragionieri e i consulenti lo stipendio di ingresso alla Camera è di 39.000 euro annui, per i primi, per i ragionieri, per i consulenti 64.000. Dopo 10 anni sono più che raddoppiati, a fine carriera arrivavano a 238 i ragionieri e 360.000 euro i consulenti. Beh, sempre al netto questo dei contributi previdenziali, per cui da questo punto di vista vanno sommate altre decine di migliaia di euro per i contributi previdenziali. Questo quello che costa noi la Camera dei Deputati, ed era importante ricordarlo prima di raccontare che cosa è successo oggi. Oggi. Allora, arriva finalmente alla Camera il tetto agli stipendi dei dipendenti, e di fronte al presidente della Camera, chiaramente Boldrini, i dipendenti hanno fatto un lungo e polemico applauso con un annesso corretto, bravi, bravi bis, grazie. Quando sono usciti i componenti dell'ufficio di presidenza della Camera al termine della riunione che ha dato l'ok alle linee guida per iniziare la contrattazione sull'applicazione dei tetti salariali. Allora, giustamente il presidente della Camera Laura Boldrini ha detto, insomma, spiace, era triste la contestazione di questa mattina proprio mentre fuori Montecitorio c'era il paese reale e i lavoratori che chiedevano il finanziamento della cassa integrazione. No, ma guardi, presidente della Camera, non è che spiace, era triste, fa veramente schifo, glielo dico io, perché che dei privilegiati totali come i dipendenti della Camera, che solo in questo paese possono arrivare a guadagnare le cifre che ho ricordato io poco fa, e non è solo il barbiere, l'elettricista, l'autista, no, sono tutti. Vogliamo parlare dei commessi della Camera? Ok, ma facciamo una bella operazione di volontariato, vediamo quanti italiani sono disposti ad andare come servizio civico a fare i commessi della Camera, no? A fare altri lavori. Adesso non mi dite che il barbiere della Camera ha una qualifica particolare, e tanto vale anche per l'elettricista. Allora, che di fronte a quello che il paese sta vivendo e che raccontiamo ogni giorno, voi vi permettiate, privilegiati totali, di applaudire, di fare il corretto, di dire bravi bravi bis e grazie al Presidente della Camera e a chi ha deciso di mettere un tetto di 240.000 euro, dovreste vergognarvi. Ma sapete che facciamo? L'applauso ve lo facciamo noi, perché siete veramente senza vergogna. Bravi, bravi. Sogno è che tutti questi dipendenti della Camera che hanno avuto il coraggio di applaudire un tetto di 240.000 euro escano fuori, si licenzino, visto che sono così arrabbiati, e vadano con il loro bellissimo curriculum a cercarsi un lavoro in un'Italia che ha il 38% di disoccupazione giovanile, il 13% di disoccupazione normale, il 30% quando riguarda se sei donna e giovane. Dai, siete così bravi, fuori, fuori, fuori sul mercato. Allora, intanto occupiamoci anche di Roma oggi, perché è successo qualcosa strano a tutti i dirigenti che devono occuparsi della linea Giardinetti, che serve all'ATAC, l'azienda dei trasporti, che serve un cospicuo numero di viaggiatori. Pensate, i dirigenti di linea sono 5, ma negli ultimi giorni 4 sono in malattia. E ora capisco che luglio è un po' freddo, cambio di stagione, ma 4 su 5? Ma che è successo? Un'epidemia? Tanto che l'ATAC ha deciso di cambiare strategia. E ha detto che tutto il personale detto alla linea, quando il servizio non funziona, viene messo in ferie d'ufficio, e se il monte ferie si supera, arrivano le trattenute sugli stipendi, e poi i dirigenti di linea saranno obbligati, non lo facevano fino adesso, a timbrare il cartellino, avranno un badge, all'entrata e uscita dovranno lasciare le loro tracce, perché almeno le tracce lasciatele, poi il resto vediamo. Allora, l'epidemia che ha colpito i dirigenti della linea, tra l'altro l'ATAC fa sapere che non può spostare dirigenti da un'altra linea, non so, dalla metropolitana alla linea Giardinetti, è un'epidemia strana, perché è arrivata in concomitanza con la decisione dell'ATAC di non abilitare 3 dirigenti, ma abilitarne solo uno. E anche l'ATAC stessa è perplessa. Pensate che nei primi 6 mesi la produzione chilometrica della linea Giardinetti ha avuto una diminuzione del 10% rispetto allo stesso periodo del 2013. Domanda, ma una bella visita medica, no? Visto che sono dirigenti, sono anche licenziabili. Dai, partiamo da lì. ATAC, un po' di coraggio. Lo dico anche all'assessore Guido Improta, che ha detto giustamente, non è un braccio di ferro, il concetto che deve passare è quello della responsabilità condivisa. Bene, andate a vedere perché stanno male. Esistono anche le visite fiscali, Resta senza risposta invece il nostro quesito di ieri: perché la regione Lombardia, che doveva spendere 1,5 milioni di euro in spese per la comunicazione della presidenza regionale, adesso ha messo a bilancio 4 milioni di euro, come ha denunciato un consigliere regionale. Dicono che l'operazione è frutto di un cambio di strategia nella comunicazione regionale. Rischiavano di non essere coordinate le singole direzioni, i singoli assessorati, si è deciso di ricentralizzare le risorse. Ho capito, però alla fine, cioè da 1,5 milioni a 4 milioni. Poi voglio dire, una domanda banalissima alla Regione Lombardia: il video promozionale Dillo alla Lombardia, c'è un video che si chiama Dillo alla Lombardia, è circolato sul web e ha avuto un effetto, come dicono quelli che ci capiscono, virale. Cioè virale, avete capito? Virale, tutti l'hanno voluto. Pensate che è costato 36.000 euro più IVA, cioè andiamo tranquillamente oltre 40.000 euro, e l'effetto virale di questo video si chiama 363 utenti in tre mesi, praticamente i dipendenti stessi neanche. Virale, virale. Allora chiudiamo prima del meteo della pubblicità con una buona notizia. Oh, ve lo ricordate Sebastiano Di Bella? Ne abbiamo parlato anche col presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone. È il segretario generale del Parlamentino siciliano che guadagna tuttora 1.500 euro al giorno. Ma ce l'abbiamo ancora? Ma dov'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Tanto che non la facciamo sentire. Però insomma, dicevo, 1.500 euro al giorno, lordi, per carità. Non vogliamo offenderla Di Bella, per un totale di 600.000 euro l'anno. Poi è arrivato il deputato questore Ruggirello a dire no, sono 520.000 euro l'anno. Ah, ok, ci siamo sbagliati. Detto ciò, sembra che Sebastiano Di Bella voglia rassegnare le dimissioni e lasciare l'amministrazione che ha servito per 35 anni. Ho capito, ma hai avuto un trattamento da principe, cioè arrivare a 520-600.000 euro l'anno, ma quando mai ti ricapita nella vita? E uno dice, vabbè, ha preso atto che le polemiche sono montate. Boh. Insomma, licenziandosi adesso, e quindi andando in pensione adesso, Di Bella non perderà un centesimo di pensione, perché andrà col massimo dello stipendio, e quindi tutto sommato, e non entrerà nemmeno nel tetto di 240.000 euro, quello famoso di cui abbiamo discusso con Ardizzone. Quindi io non so se Sebastiano Di Bella l'abbia fatto per veramente senso del pudore, travolto dalle polemiche, o per un calcolo economico puro e dicendo insomma non voglio né ridurmi lo stipendio di più della metà e voglio mantenere invariata tutti i miei diritti alla pensione. Non lo so, resteremo con questo dubbio, magari ce lo chiarirà lo stesso Di Bella, ci chiami anche lui così faremo un'altra discussione pacata. Intanto meteo, pubblicità e poi iniziamo con i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Minuti, sì, chissà se ad applaudire, penso di no, spero di no, in maniera polemica, fare i coretti contro la Boldrini per il tetto agli stipendi di 240.000 euro dei dipendenti della Camera, c'era anche il segretario generale della Camera, che tutto legalmente è Ugo Zampetti, si chiama, guadagna 478.000 euro l'anno per fare il segretario generale della Camera. E Laura Serafin, 427.000 euro, è il segretario generale del Senato. Insomma, ma ci rendiamo conto delle cifre che stiamo citando? Non so, cioè, ci sono top manager con responsabilità penali, legali, che gestiscono migliaia di persone che arrivano a 150-200.000 euro lordi. Tu fai il segretario generale della Camera e ne guadagni 480, e poi vi permettete anche, non loro nel senso diretto, ma i dipendenti, di applaudire per il tetto da 240.000 euro, ma per favore. Elisabetta Serafin, non Laura, Elisabetta. Qualcosa da dire ce l'avranno, tutto giusto, tutto regolare, tutti i soldi guadagnati sul campo. Sappiamo che è legale, mica è illegale, però essere legale, essere morale, forse sono due cose diverse, o se non si può dire? Boh. Vabbè, dai, non mi devo arrabbiare oggi, andiamo avanti con il lavoro. A proposito, il segretario della CGIL, Susanna Camusso, dice il lavoro bisogna crearlo, non discutere di regole, ma insomma, vabbè. E gli risponde, un botta e risposta, il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che dice no, le regole non risolvono i problemi ma aiutano. Sentiamoli in rapida sequenza, prima la Camusso e poi Poletti. Il governo continua ad avere un'idea, che è quella che il tema sia riformare le regole del mercato del lavoro, mentre invece il grande tema è creare lavoro, difendere quello che c'è, distribuirlo. Abbiamo proposto di incentivare significativamente i contratti di solidarietà espansivi, cioè delle forme per cui possa essere al lavoro più gente anche nelle situazioni in cui non ci sono particolari problemi di produzione, perché bisogna fare delle cose che hanno quel fine, mentre invece si continua a discutere delle regole. Sono 20 anni che discutiamo delle regole, la disoccupazione continua a crescere, la base produttiva continua a diminuire, evidentemente non è la strada giusta. Credo che non sia vero che si parla solo di regole, anche se è un'abitudine italiana quella di affermare sistematicamente che il problema è un altro. Allora, certamente le regole non sono il tema che risolve il dato della occupazione, ma le regole aiutano ad avere un buon mercato del lavoro e aiutano le imprese ad avere una sicurezza sul loro futuro, sulle scelte che fanno e quindi a poter decidere positivamente. Quindi, senza confondere i due piani, io credo che questi due piani debbano essere, come posso dire, perseguiti, sono due obiettivi per i quali bisogna lavorare insieme. Da questo punto di vista, la scelta che ha fatto il governo italiano sul piano dello sviluppo economico è quello che abbiamo sotto gli occhi, il piano che abbiamo fatto per i lavori nelle scuole, il piano che abbiamo fatto, le iniziative, perché concretamente sono partite con i comuni, si stanno aprendo i cantieri, quindi non stiamo parlando di una roba che verrà. Così come abbiamo fatto la scelta degli 80 euro in tasca ai cittadini italiani. Il mite, a noi piace molto Poletti, ministro del lavoro, con questa base proprio. Va bene, andiamo avanti con i debiti della pubblica amministrazione. Ad oggi le risorse erogate agli enti debitori risultano dal governo, le risorse che il governo ha dato agli enti che devono pagare le imprese che aspettano i soldi per i lavori e i servizi eseguiti ed effettuati, sono complessivamente di 30 miliardi di euro. I pagamenti effettuati dagli enti che hanno ricevuto questi soldi alle imprese sono pari a 26 miliardi e già qua ballano 4 miliardi. No. Questo non è che lo diciamo noi, si legge sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze che ha aggiornato al 21 luglio il monitoraggio dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese che vantano questi crediti. E questi sono anche i numeri citati dal sottosegretario dell'Economia Giovanni Legnini oggi in una lunga intervista sul Sole 24 Ore a cura di Gianni Trovati, intervista che abbiamo realizzato nei nostri studi, e ascoltiamo questo passaggio, a mio avviso particolarmente significativo per tutti gli imprenditori che aspettano ancora i pagamenti, visto che Legnini ha sottolineato, confermato l'obiettivo del governo di pagare entro settembre i 56 miliardi già stanziati. Pagamento dei debiti delle PA nei confronti delle imprese è, come è noto, un aspetto centrale delle politiche di stimolo alla crescita. Se noi, come ci siamo proposti, riusciremo a pagare tutti i 56 miliardi di euro entro un tempo ragionevole, i 56 stanziati, non c'è alcun dubbio che questo avrà un effetto positivo sull'economia, per ragioni del tutto ovvie. A che punto siamo? La strumentazione normativa e il profilo attuativo delle norme emanate è completa. Anche il protocollo d'intesa sottoscritto 3 giorni fa ne prende atto e chiede alle parti coinvolte, pubbliche e private, di cooperare per far funzionare queste misure. Adesso spetta però ai soggetti attuatori di questa misura, quindi alle regioni e ai comuni che devono chiedere risorse, lo stanno già facendo, ma bisogna che si acceleri e bisogna anche che si attivino quei meccanismi sanzionatori previsti per i dirigenti che omettono di comunicare debiti e così perché via. Perché finora, diciamo, le sanzioni sono rimaste minacciate ma non attuate. Bisogna attuarle perché uno dei motivi del rallentamento dei mesi passati è stato proprio questo. Ecco, adesso occorre appunto la cooperazione di tutti per fare in modo che si completi entro i tempi previsti. Lei mi dice ci riusciremo a settembre, non tutto dipende, per ciò che dipende dal governo sì, per ciò che dipende dagli altri soggetti coinvolti vedremo, mi auguro di sì. ad oggi, come è noto, dei 56-57 miliardi circa stanziati, 30 sono stati assegnati, compresi quelli dello scorso anno ovviamente, 30 sono state assegnate agli enti debitori, diciamo così, 26 sono stati effettivamente, circa, sono stati effettivamente pagati. Questi dati sono in via di aggiornamento in queste ore, quindi possono solo migliorare, diciamo, da qui a qualche ora, a qualche giorno, ma un pezzo molto importante rimane da fare, e adesso ci sono tutte le condizioni perché nelle prossime settimane affluisca nei bilanci delle aziende questa massa monetaria importante. Senta, c'è ancora un tema di quantificazione totale. I 56 miliardi di cui parlavamo sono quelli, diciamo, già individuati, certificati e stanziati. C'erano queste stime della Banca d'Italia, che però secondo il Ministero dell'Economia erano eccessive, che parlavano di 90, oltre 90 miliardi. Allora, tra questi 90 che sono eccessivi e questi 56 che sono stanziati, i debiti davvero da pagare più o meno quanti sono? Su questo punto posso dire che il combinato disposto dello smaltimento dell'arretrato, dell'entrata a regime della piattaforma e della fatturazione elettronica, del nuovo sistema di fatturazione elettronica, per il futuro con ogni probabilità, anzi direi con certezza, eviterà di incorrere in questa abnormità per un paese normale. Cioè... Così appunto il sottosegretario Legnini, speriamo anche nella fatturazione elettronica. Il tema è tutto un tema da esplorare e da evidenziare, perché obiettivamente la fatturazione elettronica, non possiamo parlare adesso, dovrebbe evitare poi anche, come capitò 2 anni fa, semplicemente il non sapere a quanto ammontavano complessivamente tutti i debiti della pubblica amministrazione italiana, e poi a tracciare operazione e capire anche cosa fa l'amministrazione pubblica. Allora, adesso siamo in momento di traffico, poi la borsa, anzi vorrei fare un aggiornamento su Alitalia e poi la borsa la facciamo alle 18.05, confermo Milano la migliore delle borse oggi in Europa, Parigi più 0,80, Francoforte più 0,40, Londra più 0,30, l'America più 0,13%, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Oggi sento voglia di weekend in regia, vabbè, andiamo avanti così, non riesco a starci più nemmeno dietro io. Alle 17.49 minuti riprende Focus Economia, programma, diciamo, da prendersi ed ascoltarsi con una certa dose di Malox, grazie anche alla nostra pubblica amministrazione. All'Italia, vediamo se andiamo verso notizie un po' più morbide. Il Consiglio di Amministrazione in mattinata è stato chiamato ad esaminare il contratto con Etihad e il nuovo aumento di capitale, poi nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione delle Poste e forse anche il dossier Italia. Intanto i lavoratori e l'Italia sono al voto per approvare o bocciare l'intesa sui 31 milioni di tagli al costo del lavoro. Si vota fino a domani, in tempo per quella che sarà l'assemblea degli azionisti di Alitalia, che deve approvare l'operazione e il contratto con Etihad. Ancora, le Poste non si capisce se vogliono partecipare, mancherebbero a quel punto 40 milioni di euro per l'intera operazione. Il ministro Lupi oggi ha detto: abbiamo fatto come governo il possibile, adesso tocca ai lavoratori, nessuno ha chiesto alle Poste di investire, Poste ha investito perché credeva nel progetto iniziale, non vi sarà comunque come nel 2009 una bad company, cioè una società in cui confluiranno tutte le perdite, le parti negative dell'Italia. E poi il ministro Poletti che ha detto: per quello che riguarda l'Italia vogliamo fare politica attiva, E sentiremo anche Susanna Camusso sulla vicenda all'Italia. Però sentiamo prima il ministro Poletti. Per l'Italia, con il contratto di ricollocamento, noi vogliamo fare una politica attiva, cioè queste persone avranno la loro cassa integrazione, la loro mobilità in particolare, perché se vanno in mobilità avranno la loro mobilità, ma mentre sono a casa in mobilità noi le aiuteremo a cercare un nuovo lavoro attraverso un contratto che loro stipuleranno con agenzie o servizi per l'impiego, che per 2 anni li accompagneranno nei loro percorsi per cercare un nuovo lavoro, e per aiutarli a trovarlo avranno degli incentivi le imprese che li prenderanno a lavorare. E poi Susanna Camusso, a margine della manifestazione per chiedere il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, e ripeto, su questo abbiamo già espresso varie posizioni. Allora, la cassa integrazione in deroga, cioè data a chi non se la potrebbe, non rientrerebbe nella fattispecie, va bene, però rischia in molti casi di mantenere in vita artificialmente aziende che sono fallite, che non hanno più speranze. È brutto dirlo, ma è così. Allora buttiamo via i soldi, perché tenere in cassa integrazione in deroga un dipendente 1 anno, 2 anni, 3 anni significa illuderlo, se oggettivamente non vi è più un elemento che ci porti a dire che l'impresa in cui lavorava possa ripartire. Allora, meglio sarebbe utilizzare quei soldi per un plafond di sussidio di disoccupazione, a patto che tu dimostri che stai facendo corsi di riqualificazione e che perderesti qualora rifiutassi il lavoro, come avviene in altri paesi. Lo dico con massimo rispetto, mi rendo conto, ma non è che uno può vivere con la cassa integrazione in deroga, anche perché poi non sono soldi che ti permettono di vivere, ma ha un costo altissimo per lo Stato. Comunque, Susanna Camusso sulla l'Italia e sul referendum indetto dai sindacati. Io penso che l'azienda deve anche smetterla di utilizzare il rapporto con il sindacato e le scelte del sindacato come alibi rispetto agli accordi che deve fare. Da questo punto di vista penso che ci sia un uso sempre più strumentale, compreso il fatto che c'è tanta concentrazione sui temi del salario e poca concentrazione invece sul fatto che lì ci sono dei licenziamenti senza prospettive per quei lavoratori. Comunque io credo che queste cose vale sempre la democrazia, i lavoratori e le lavoratrici stanno votando, mi pare che il Consiglio di Amministrazione dell'Italia invece abbia dei problemi da risolvere al suo interno. Ci mancherebbe che non prevalesse la democrazia e il voto il referendum chiesto dai sindacati. Faccio solo notare al segretario generale della CGIL che io non ho ancora capito, per colpa mia, quale sia la proposta alternativa della CGIL per salvare l'Italia, o dobbiamo tenerci l'Italia che perde quasi 1 milione di euro al giorno sulle tasche sostanzialmente poi nostre. Questo chiedo, se ha una proposta alternativa, un altro alleato, un rilancio, un piano industriale, ce lo dica, perché da sempre ne parliamo purtroppo. Gianni Dragoni è uno di che da sempre ne scrive per il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, ciao. Mi spieghi solo una cosa che non ho capito, si fa per dire, non ho capito molto su questa vicenda. Però le Poste, cosa ha intenzione di fare Francesco Caio? Li mette sti 40 milioni o non li mette? Ma Francesco Caio si è posto di fronte al problema dell'Italia come James Hogan, amministratore delegato di Etihad. Cioè, in pratica lui ha detto: io, se volete che metta dei soldi, non li metto, non voglio né assumermi dei rischi, il rischio di coprire gli oneri delle controversie del passato, né i debiti che sono in eccesso, che restano comunque nella compagnia, stavo per dire nella bad company, che non viene chiamata bad company, ma la CAI si trasformerebbe in una scatola vuota con i debiti, le passività, assomiglierebbe molto a una bad company, anche se formalmente non lo sarebbe. Ma lui dice: io posso mettere i soldi, ma li metto solo nella nuova società che nasce con lo scopo dell'attività di volo, quella in cui investirà Etihad. Poi l'ipotesi intermedia delle ultime ore è che si possa creare addirittura una nuova società, una doppia nuova società. C'è la nuova società con le attività di volo in cui entra Etihad, e c'è sopra una nuova società i cui azionisti potrebbero essere le Poste e la vecchia CAI, l'attuale Italia CAI. Insomma, una cosa un po' complicata da spiegare e da capire, ma la sostanza veramente non ci ho capito nulla, nemmeno io, però questo non fa testo, però insomma. Quindi tu dici l'ipotesi di costruire una società in testa a tutto, non perché dai senza, quasi sei abbastanza senza. Convinto che le Poste in queste condizioni non metteranno i soldi? Diciamo, hanno posto anche loro delle condizioni molto dure, e quindi alla fine sono 40 milioni, forse potrebbero anche fare l'operazione senza le poste, gli altri soci, le banche, se Etihad fosse d'accordo. Sì, però le banche, giustamente, devo dire, sì, ci stanno già perdendo con i prestiti, sì, fatti, non vogliono mettere un euro in più, già rinunciano a molti crediti. Possiamo dire che il senso comunque di questa posizione delle poste, che hanno cambiato, come quasi tutte le grandi società pubbliche, hanno cambiato capo, amministratore delegato, e che in realtà l'intervento un po' costretto dal governo di dicembre delle poste è stato in Alitalia 75 milioni già bruciati dalle perdite, è stato un intervento più di tipo politico, un salvataggio, che è un vero intervento industriale per le poste, perché questo non ha prodotto nessun tipo di beneficio o sinergia, e quindi il nuovo amministratore delegato delle poste, al di là di come, diciamo, motiva la sua proposta, è un po', dice, ma io perché devo mettere dei soldi nell'Alitalia alla fine? Qual è il vantaggio? Qual è il beneficio? Questo è il vero, diciamo, ragionamento che sta facendo, e mi pare che la stia facendo molto difficile agli altri, più per farsi dire di no che farsi dire di sì. Poi chissà, alla fine potrebbe anche succedere che invece le poste partecipano, ma non come volevano prima, cioè non partecipano più ai rischi del passato. Beh, visto che gestiscono anche il risparmio postale degli italiani, non è una posizione sbagliata quella di Caio. Grazie a Gianni Dragoni. Faccio notare che alcuni ascoltatori suggeriscono che i dipendenti della Camera e del Senato abbiano contratti a 5 anni, eventualmente rinnovabili, eventualmente no. Perché no? Così chi applaudiva oggi sarà bravissimo a cercarsi un lavoro fuori sul mercato, vista la professionalità che ha sempre dimostrato. Alle 18:08 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo alla borsa. No, non posso più parlare dei dipendenti di Camera e Senato, però insomma le difficoltà a riformare questo paese si vedono. Comunque andiamo avanti con le altre notizie. Buona la giornata di oggi, come anticipavamo in borsa. Milano la migliore in assoluto, più 2%, con Parigi più 0,80, Francoforte più 0,40, Londra più 0,30, e l'America è praticamente invariata. Azimut più 8%, il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Mediaset più 6,90, e poi la pattuglia delle banche, Monte dei Paschi più 6,5, Pop Emilia Romagna più 6,20, Pop Milano più 6, UbiBanca più 5,40, Banca Popolare più 4,90, Unicredit più 3,70, Intesa San Paolo più 3,5, Mediolanum e Unipolsai più 3,3%. Bene anche Mediobanca più 2,92, Atlantia più 2,30, come A2A, Fiat più 2%. Saipem invece negativa dell'1,85, ST Microelectronics dello 0,70, CNH Industrial dello 0,66%, l'euro è stabilmente a quota 1,34,6 sul dollaro. E come sempre Radio Cori, Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, le banche. Allora, per quello che riguarda le banche, anche oggi è proseguita una giornata di recupero, come era già stata quella di ieri, e in particolare anche lo spread, che è sceso ulteriormente attorno ai 154 punti base, ha favorito tutte le popolari, da partire dalla Popolare dell'Emilia-Romagna, più 6,21%, che ieri ha annunciato la chiusura dell'aumento di capitale, della vendita dei diritti rimasti inoptati, e poi tutte le altre banche, a partire da BPM più 6 e UBI più 5,37%, bene anche Monte dei Paschi più 6,52%. C'è stato anche a contribuire a questo clima alcuni giudizi da parte delle banche d'affari, che in particolare andavano a premiare la Popolare dell'Emilia-Romagna, che per lunga parte della giornata è stato il titolo migliore a Piazza Affari. Ancora tra i titoli, scusatemi, oltre al mondo bancario, appunto tu citavi anche la Popolare Emilia Romagna, che appunto ha reso noto ieri di avere totalmente venduto nel primo giorno dell'offerta i diritti inoptati per aumento di capitale. E le banche comunque molto avevano ceduto nei giorni scorsi. Mediaset, qui c'è notizia di mercato. Sì, per quello che riguarda Mediaset sono i conti della controllata spagnola Mediaset Spagna che sono stati diffusi ieri quando già le borse erano chiuse e sono stati conti che hanno sorpreso il mercato. È vero che l'utile è sceso del 50% a 9 milioni, ma il mercato si aspettava peggio, la società in particolare ha fatto molto bene sui ricavi, più 16%, e ha mostrato un andamento della raccolta pubblicitaria che almeno in Spagna sta dando segni di vitalità, perché ha fatto un più 11%, facendo anche meglio del mercato spagnolo che era fermo a più 8%, sulla scia dei buoni risultati appunto della controllata spagnola, che oggi alla Borsa di Madrid ha guadagnato circa l'8%, Mediaset ha fatto un più 6,9%. Dicevamo tra i titoli sicuramente le banche e Mediaset, però il migliore in assoluto è Azimut, più 8%, hanno approvato la semestrale. Oggi hanno approvato Azimut fa risparmio gestito, lo dico a chi non lo sapesse. Prego. Sì, oggi hanno approvato la semestrale da cui è emerso un aumento dell'utile a 81,8 milioni da 78,3 milioni, ma soprattutto hanno dimostrato la capacità di raggiungere gli obiettivi del piano che si erano dati 5 anni fa con 6 mesi d'anticipo. Il piano prevedeva in particolare masse gestite per 27 miliardi di euro, un risultato che è stato già ottenuto adesso a fine giugno, per cui la società da un lato ha già esaurito, diciamo così, il suo piano e si prepara anche a chiudere l'anno con un utile netto record. Due buone notizie che oggi il mercato ha premiato. Allora, per quello che riguarda tra l'altro gli altri titoli, oltre appunto a Azimut più 8%, volevo commentare invece pochi titoli negativi, va detto, ma uno su tutti, ST Microelectronics è l'effetto di ieri, immagino, ma Saipem che ha perso l'1,85%. Sì, per quello che riguarda ST Microelectronics prosegue la fase di discesa di ieri dopo i conti, mentre per quello che riguarda Saipem anche qui sono i conti trimestrali a pesare, non quelli di Saipem direttamente, ma quello della francese Technip, che fa un lavoro molto simile a quello che fa Saipem e che ha risentito di alcuni tagli delle stime sui margini, in particolare perché ci sono tutta una serie di progetti in aree in questo momento complicate come la Russia, che stanno risentendo negativamente e che vanno a impattare anche sulle prospettive per il titolo. Oggi a Parigi Technip ha fatto meno 8,5% e anche Saipem comunque non è andata bene. Ancora per quello che riguarda i titoli, abbiamo oggi la notizia tra l'altro appunto da Cassa Depositi e Prestiti che è in trattativa per cedere il 35% di Cassa Depositi e Prestiti e Reti, appunto la società interamente di sua proprietà, che ha appunto, come tu ricordavi, il 30% di Snam e Eterna. Snam e Eterna. Sì, Terna ha guadagnato l'1,16%, Snam ha fatto più 0,54%, da segnalare per quello che riguarda Terna che oltre a questa operazione ha anche presentato i suoi conti semestrali, anche qui sono risultati positivi con un utile netto che per quello che riguarda Terna è cresciuto del 4,1% a 274,5 milioni. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi sul mercato, ti ripeto, buona la giornata, non lamentiamoci, Azimut è il migliore anche in assoluto, poi c'è Nokia Corporation più 7,20, Mediaset terzo miglior titolo, Monte dei Paschi quarto miglior titolo, e poi il Banco Popolare di Emilia Romagna, Pop Milano, anche il Credito Valtellinese oggi ha recuperato il 5,90% e Bialetti il 5,50%. Invece sul fronte opposto abbiamo Eukedos meno 6,60, Poligrafici Editoriale meno 4,70, Screen Service meno 4,70, Prelios meno 4,30, Beni Stabili meno 3%. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, mi scrive un ascoltatore: caro Barisoni, non capisco la sua forte avversione alla cassa integrazione. Io in realtà ho detto la cassa integrazione in deroga. No, non è una versione, la cassa integrazione in deroga che si applica a tutti quelli che non avrebbero diritto, ecco perché si chiama in deroga, e che riguarda molte volte artigiani, piccole società, piccole imprese, è servita, non so, però il problema è capire quanto la mantieni questa cassa integrazione in deroga, e ne abbiamo ragionato anche in diretta mesi fa con il ministro Poletti, perché, che devo dire la pensa esattamente in questo modo, perché un conto è aiutare un'impresa in un momento di difficoltà anche quando non avrebbe diritto alla cassa integrazione per i suoi dipendenti, perché magari si sta ristrutturando o ha avuto una congiuntura difficile, o... ma se è il modello stesso di quell'impresa che non sta più funzionando, cioè se lei ormai non ha, in un mercato concorrenziale, non ha più diritto di stare in piedi perché non ha un modello profittevole, la domanda è quanto manteniamo in vita artificialmente un'impresa, o meglio i suoi dipendenti, anche perché giustamente mi scrive qualche ascoltatore che i soldi della cassa integrazione in deroga sono pochi, 700 euro in media, poi vanno via a scendere, però dice, sa, 700 euro per stare a casa e non pagare spese di trasporto, babysitter e quant'altro, non riesco più a trovare il messaggio, non ti viene voglia di ricercare un lavoro a 1000 euro, appunto non paghi i babysitter, risparmi di benzina. Questo è anche un effetto distorsivo sul mercato, perché rischi di mantenere, di dare una specie di sussidio di disoccupazione a questi lavoratori di aziende che non riapriranno più i battenti, senza però i principi virtuosi dei sussidi di disoccupazione, perché all'estero tu li ricevi ma devi fare i corsi di aggiornamento, iscriverti a un'agenzia di collocamento o di job placement, come si chiamano adesso. Perdi il sussidio, che questa è anche nella proposta del governo, se rifiuti il primo lavoro che ti viene recuperato, beh comunque lo perdi e non hai più diritto, per cui il sussidio di disoccupazione ha anche un effetto virtuoso se ben giocato di reinserimento. La cassa integrazione in deroga no, parcheggia un lavoratore a casa, ha un costo di svariati miliardi per lo Stato italiano e non gli dà nessuna prospettiva. Comunque, visto che oggi c'è stata la manifestazione davanti a Montecitorio, quella a cui faceva riferimento la Boldrini, dicendo insomma, che dispiacere vedere i dipendenti di Montecitorio che non accettano i 240.000 euro di tetto quando fuori protestano per la cassa integrazione in deroga. Allora, la cassa integrazione in deroga, manifestazione oggi davanti appunto a Montecitorio per rifinanziamento, le risorse sono altre 200 milioni, ha spiegato Susanna Camusso, segretario CGIL, destinate a Sardegna e Calabria, oltre 400 già stanziati per il 2013 e 1 miliardo che serve per il 2014. Anche il leader della CISL, Raffaele Bonanni, durante la manifestazione che era unitaria, cioè CGL, CISL e UIL, per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, ha detto speriamo che il venerdì, cioè domani, il Consiglio dei Ministri discuta le coperture per il 2014, serve 1 miliardo, tanto ci costa la cassa integrazione in deroga, per coprire la cassa integrazione in deroga sul 2014. No, il governo rassicura che sta lavorando per trovare i soldi, vediamo un po'. Noi intanto protestiamo a che facciano presto a trovare i soldi. Se non si trovano i soldi, molti devono tornare a casa e quindi perderanno il legame di rapporto di lavoro oltre che il reddito, è una cosa inaccettabile. Mi chiede un ascoltatore, ma perché non va bene la cassa integrazione in deroga per gli artigiani, ma va bene dare 7 anni di mobilità agli ex dipendenti all'Italia? No, non va bene neanche quello, guardi. Ma poi le ripeto, nessuno ce l'ha con la cassa integrazione in deroga, non mi fate dire cose però 82 volte. E bisogna stare attenti, se si può porre un dubbio, a quando, qual è il periodo temporale che diamo a questa cassa integrazione in deroga. Un anno? 2 anni? Decidiamolo. Dopodiché, se l'azienda non riesce a riprendersi, bisogna prendere atto, tristemente, che non ce la fa più, che chiude e che non ha senso utilizzare uno strumento temporaneo come la cassa integrazione, anche in deroga, per una crisi che ormai è strutturale e definitiva di quell'impresa. Allora, il ministro Poletti comunque sulla cassa integrazione in deroga che ha spiegato come il governo abbia dovuto anche reperire le risorse che non c'erano per pagare quella del 2013. sulla cassa in deroga, noi siamo arrivati qui con i soldi che non c'erano per pagare il 2013 e abbiamo deciso di spostare una quota di queste risorse per pagare. L'INPS sta pagando, completando i pagamenti del 2013, ha iniziato a pagare quelle del 2014. La prossima settimana andremo in Consiglio dei Ministri con la copertura del fabbisogno che abbiamo sul 2014. È quello che potevamo fare, possiamo fare, a fronte di una situazione che era stata costruita male, perché quando io sono arrivato a fare il ministro non si sapeva neanche quanto si dovesse ancora pagare del 2013. Abbiamo rimesso in ordine i conti, abbiamo definito le risorse per pagare il 2013 e l'inizio del 2014. La prossima settimana affronteremo il tema di un rifinanziamento della cassa in deroga. Vabbè, appurato che oggi in regia ce l'avete col ministro Poletti, mi tagliate sempre così bruscamente. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Davide, due punti, visto che tu segui anche tutto il dibattito. Vabbè, il riferimento, se ho ben capito, un miliardo serve per il 2014, per l'anno in corso, ma vorrei anche che tu ci aggiornassi sul, non dibattito, ma sul, insomma, sull'ipotesi che Poletti più volte ha avanzato di arrivare a un superamento in senso positivo della cassa integrazione in deroga. Prego. Ma dunque, intanto la legge di stabilità per quest'anno appostava 1 miliardo e 400 milioni rispetto ai 2,4 miliardi dell'anno precedente. Quello che ha dichiarato adesso Poletti non è una novità, gli ultimi tre ministri del lavoro hanno detto la stessa cosa quando sono arrivati, perché è dal 2009, cioè quando questo strumento è entrato a regime, lo ha introdotto Maurizio Sacconi l'anno dopo l'inizio della grande crisi. Ecco, da allora le risorse per la chiusura dell'anno precedente non sono mai state sufficienti, quindi è sempre stata fatta una ricorsa durante l'anno. Adesso siamo al primo semestre, al settimo mese, finito anche luglio, e per l'appunto in linea con quello che è avvenuto finora si cercano le risorse per chiudere l'anno precedente. Per quello che riguarda il superamento di questo strumento, che è uno strumento totalmente a perdere, cioè un ammortizzatore che allarga a una platea che prima non era coperta dalla cassa integrazione della mobilità, un ammortizzatore senza verifica e effettiva della continuità aziendale possibile, con un riconoscimento su base regionale sostanzialmente a rubinetto aperto, cioè non c'è una verifica, tutte le regioni sostanzialmente accolgono gli accordi sindacali che vengono fatti e le traducono in finanziamenti che poi l'INPS deve pagare, e le risorse anno per anno, appunto dal 2009 ad oggi, sono state poi reperite, racimolate in qualche modo nella seconda parte dell'anno successivo per cercare di chiudere l'anno precedente e l'anno successivo. C'è un decreto interministeriale che introduce criteri più restrittivi e un maggior controllo su questo strumento, che è finalmente pronto. Anche questo si trascina dalle origini del governo Letta, quindi dal passaggio dei testimoni Monti-Letta, per capirci, e questo decreto interministeriale è stato controfirmato da Economia e Lavoro e dovrebbe essere operativo dal primo settembre, cioè qualche settimana fa il Ministero del Lavoro ha procrastinato fino alla fine del mese di ottobre l'accettazione dei requisiti vecchi per questi ammortizzatori sociali in deroga, cioè sostanzialmente i primi 8 mesi dell'anno, finirà il mese di agosto e teoricamente a settembre dovrebbero essere utilizzati i nuovi requisiti. Speriamo, perché appunto, come dicevi tu prima, qui c'è una responsabilità molto lasca di regioni che appunto non avendo loro l'onere del pagamento non controllano, accettano qualunque accordo, e quindi sì, io non volevo neanche arrivare fino a quel punto, cioè però tu hai ragione, perché se le regioni non controllano però il corretto utilizzo e chi ne fa richiesta, si rischia anche di utilizzare in maniera quasi illegittima la cassa integrazione in deroga. Però era proprio il principio su cui Poletti mi era sembrato molto d'accordo mesi fa, nel dire piuttosto prevediamo un sussidio di disoccupazione vincolato alla riqualificazione dell'ex dipendente e poi all'accettazione dei lavori che vengono offerti, ma la cassa integrazione in deroga mantiene in vita artificiale, mi dispiace moltissimo ribadirlo, imprese che non avrebbero più ragione, o imprese artigiane, manifatturiere, dei servizi, quello che è, del commercio, che non avrebbero più motivo di restare in vita. Va avanti il disegno di legge o no? Ma no, è un decreto interministeriale. Esatto, decreto interministeriale, hai ragione. È un decreto che addirittura pensa è previsto dalla legge 92, cioè la famosa riforma del mercato del lavoro di Elsa Fornero, tanto vituperato, di cui oggi appunto ci sono una serie di adempimenti operativi previsti. Questo qui era previsto lì, proprio perché l'idea era di mettere un punto a un tipo di ammortizzatore che non è legato a nessun tipo di politica attivante o di formazione o di recupero e di inclusione nel mercato del lavoro, per cui è a perdere. Fatto così, questo strumento sostanzialmente chiama anno dopo anno platee potenziali di fruitori che poi, come una catena di Sant'Antonio, vanno alla fine a legarsi a presunti esodati che in qualche modo trovano un riconoscimento sindacale o parlamentare di tutela, ma in questo modo purtroppo al netto della grande crisi non si va da nessuna parte. Visto che è un decreto interministeriale, come sempre torniamo sul tema della parte attuativa. Grazie intanto a Davide Colombo. A voi. Non ti posso rispondere, a noi, perché appartiene a un altro periodo che nessuno rimpiange. Allora è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani ci risentiamo in diretta dalle 17 in poi. Intanto l'augurio comunque di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente. Era il 1963, nasceva una nuova idea di vacanza e nasceva Europa Assistance, che da oltre 50 anni ti accompagna in viaggio con serietà ed esperienza. E lo fa ancora oggi, con polizze viaggi innovative che ti proteggono in caso di imprevisti. I tempi cambiano, la sicurezza di partire con noi resta sempre la stessa. Chiama 803-803, visita il sito, vai in uno dei nostri punti vendita o in agenzia di viaggio. Europa Assistance. You live, we care. Messaggio pubblicitario di Europa Assistance Italia. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 28 e 29 novembre, Fiera Milano City. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Estate a giorni alterni anche in quest'ultimo scorcio di luglio. Venerdì la settima perturbazione del mese si allontanerà finalmente verso est, favorendo un netto miglioramento del tempo. Sabato purtroppo tornerà l'instabilità al nord nelle zone interne adriatiche del centro. Domenica sarà la giornata migliore del weekend, tornerà il bel tempo con solo residua instabilità al nord-est e sull'Appennino. Ma intanto nel dettaglio, venerdì al sud e nelle isole tempo prevalentemente soleggiato, sulle regioni del centro-nord tempo buono con nuvolosità variabile, schiarite soprattutto in Valpadana e lungo la fascia tirrenica. Nel pomeriggio alcuni rovesci temporali isolati nelle aree montuose del centro-nord. Tra la sera e la notte temporali in rapido sviluppo sul nord-ovest. Per maggiori dettagli consultate meteo.it e con questo è tutto. Abitare.com è il nuovo portale per rinnovare la tua casa. La nuova showroom per l'abitare con le migliori marche di rubinetteria, arredo bagno e accessori, piastrelle, climatizzazione, boiler, articoli per relax e benessere. Tutto a prezzi ribassati, comodamente da casa tua, senza fretta e con il miglior servizio. Abitare.com ti dà tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama i nostri esperti 800 775 790. Finalmente un sito chiaro, veloce e con offerte speciali tutte le settimane. Abitare.com. Più comodo di così. Vuoi valorizzare il tuo percorso di carriera? Gli Executive Master della Business School del Sole 24 Ore sono una garanzia per il tuo futuro. Da ottobre, le nuove edizioni in direzione strategia, HR, Strategic Marketing e Finance e i nuovi master nei settori arte, lusso e vendite. Oltre 500 i diplomati. Entra a far parte della Business Community Executive 24. Per informazioni, www.formazione.ilsole24ore.com. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Il nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. Caro Parenzo, ascolta cosa dice. Buonasera. Non c'è bisogno di dire buonasera. Ascolta, perché sto dicendo una cosa molto grave. Sì. Ascolta quello che dice uno studioso israeliano, un tale Mordecai Kedar, studioso israeliano, studioso di movimenti estremisti arabi, il quale dice che per fermare la guerra che imperversa nella striscia di Gaza e che ha provocato con le bombe su una scuola dell'ONU oggi almeno 16 morti, bisogna violentare le palestinesi. Ti dico esattamente qual è la frase. L'unica cosa che potrebbe scoraggiare un attentatore suicida è sapere che se catturati, sua sorella o sua madre sarebbero violentate. Beh, dice una follia, ovviamente. Intanto Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, sulla riforma del Senato, oggi è successo un gran casino perché è stata messa la tagliola, ci saranno cioè circa 200 ore, 150 giù di lì, di discussione, poi si voterà entro l'8 agosto, non c'è nessun pericolo dittatura, non c'è nessuna dittatura alle spalle, non c'è nessuna, ecco, non c'è nessuna, come dire, volontà di comprimere l'opposizione, ci sono ore a sufficienza per discutere. Però Nicola Morra del 5 Stelle dice che il Senato dice esattamente queste parole, ve le voglio leggere letteralmente. Matteo Renzi pensa che il Senato sia come Gaza, sia come Gaza. E Paola Taverna dice è guerra. Puppato, Partito Democratico, filo palestinese. Sentite. Ora mi dispiace, io capisco che, come dire, per Israele evidentemente essere colpiti da dei razzi è sempre molto problematico e questo scatena odi nei confronti del popolo che li invia. Però stiamo parlando di un popolo che è rinchiuso in una fetta di terra, assolutamente un campo di concentramento, possiamo definirlo così, oppure una riserva indiana, ecco. Parole in libertà. Non possiamo uccidere tutti i palestinesi. Parole perché ogni libertà, tanto lanciano un razzo. Sentite questo. Ogni tanto. Sono loro che alimentano e approfittano. Vabbè, ma non di possiamo uccidere gente. Tutti i palestinesi. È su di loro perché ogni che tanto sparano agire, un razzo. Mi scusi, non c'è allora, la proporzione. Allora, non è un popolo allora, armato. È dire? Un popolo fermiamo, rinchiuso dentro una terra dalla quale qui, non scusate, può neppure fuggire. Nessuno nessuno, cara Puppato, nessuno vuole uccidere tutti i palestinesi. No, nessuno vuole uccidere. Sono obiettivi militari, tunnel e missili. Tunnel e missili sono obiettivi militari. Militari. Vabbè, tu hai una posizione molto particolare. No, è una tragedia la guerra. Io sono d'accordo è con te che al 100%. No, ma è evidente che è una tragedia, che anche ogni morto palestinese fa piangere il cuore, ma questo è evidente, straevidente. Siamo di fronte a quei criminali di Hamas che continuano a rifiutare le tregue. Ma scusami, ma ci sarà un motivo? Ma scusa, quel signore che ha detto, no, che bisogna violentare i palestinesi? L'ho detto, ma quello non l'ho letta, quello è un folle. Ma ti pare che possa una persona intelligente possa dire? Ma non è questo il punto, gli obiettivi sono militari, obiettivi militari, tunnel e missili. Tutto il cemento, ma scusami, ma perché non lo dici mai? Ma tutto il cemento che gli israeliani hanno portato a Gaza, cosa è servito? Non per costruire le case, dei begli alberghi, hanno costruito dei tunnel per infiltrare i loro terroristi in Israele, non per costruire degli alberghi, delle case. Questi sono i criminali di Hamas. Posso aggiungere terroristi di merda? Si può aggiungere, no? L'hai detto tu, cioè, beh, Hamas c'è quella roba lì, eh? Allora, cari amici, pensate che la tagliola imposta al Senato, voto entro l'8 agosto, sia una roba antidemocratica? Addirittura si parla di marcia verso il Quirinale, le barricate, la Boschi che dice che comunque sarà fatto un referendum, eccetera, eccetera. Sentiamo Renzi, non ci sarà nessun ostacolo in grado di fermarci. Non ci sarà nessun ostacolo in grado di fermarci. Potranno rallentare, potranno far sì che si stia ad agosto a lavorare, ma non è un male, potranno far sì che si possa rinviare di qualche tempo, potranno fare qualche scherzetto sul voto segreto, andremo alla Camera, lo cambieremo. Ma alla fine di questo percorso l'Italia sarà messa nelle condizioni di tornare a correre. Devo dirti una cosa, trovo insopportabile parlare di dittatura, di pericolo, l'abbiamo già detto più volte, ma questo d'accordo. Però la fretta è funzionale al fatto non di presentare una buona riforma per il paese, ma semplicemente allo scopo. Renzi vuole comunicare, ecco, ce l'ho fatto. Ma può essere. Non sarà una bella riforma, ma a me la tigna. Non sarà una bella riforma, io l'ho detto mille volte. Ma questa è la cosa fondamentale. Però a questo punto, come per le grandi opere, si sono votate, si facciano, si fa. Come per me il ragionamento è uguale per le grandi opere. Adesso salterà fuori qualcuno che dice che è inutile. La riforma del Senato non è la migliore, ma si faccia, a costo di lavorare tutto agosto dalle 8 del mattino a mezzanotte. Non mi fanno pena, non mi fanno pena, non mi fanno pena. Ah, ti pare possibile, Parenzo, che oggi, ti giuro, oggi hanno protestato, a proposito di Camera e di Senato, hanno protestato alla Camera i dipendenti, i sindacati in realtà dei dipendenti della Camera, perché si sta andando verso un tetto massimo di stipendi di 240.000 euro, no? In questo caso la Boldrini è favorevole a questo tetto. Bene, benissimo. In realtà bisognerebbe protestare per motivi diversi, perché il tetto è troppo alto di 240.000. Non c'è dubbio, certo. Bisognerebbe protestare esattamente per il contrario, che il tetto di 240.000 euro di stipendio per gli alti funzionari della... Perché un dipendente della Camera... Sono sindacati interni. Perché un dipendente della Camera deve guadagnare di più di un dipendente del Comune di Roma? Non c'è dubbio. Perché? Non c'è dubbio. Perché un dipendente della Camera deve guadagnare di più di un dipendente del Comune di Perugia? Vergogna. O del Comune di Cesano Boscone? Perché? Vergogna. Perché la Camera? Perché il Senato? No. Non c'è dubbio. Battagliato con Salvini oggi, hai battagliato stamattina con Salvini, sì. Sui Rom, era fissa. No, intanto ho visto delle bellissime transenne a Firenze, alla stazione di Firenze, delle stupende transenne che coprono e difendono i cittadini, i passeggeri dall'assalto dei Rom vicino alle biglietterie. Meravigliose transenne. Bene, quelle transenne. Meravigliose. Voglio vedere anche la cooperativa. Salvini versus Parenzo. Il dibattito sulla moneta oggi, per fortuna, non lo fa nessuno. Se non voi che avete dentro la vostra zucca i Rom, che sono 20.000 e che ogni tanto buttate così in faccia alla gente: c'è il Rom! Questa è la Lega. Gli zingari! Sentiamo la replica. Potevo andare, però mi dovete far sentire voi. È incredibile. La replica breve. Scherzi a parte, mi alleno la prossima volta, preparo due barzellette così almeno siamo in tempo. Ma è lei che fa scherzi a parte? Se non parla dei problemi dell'Italia, anziché dare la colpa alternativamente alla BCE dei Rom. Sto dicendo che tagliare 1,5 miliardi di euro alle forze dell'ordine è una mossa da cretino. c'è un'altra cosa fondamentale che è accaduta oggi, anzi ieri, caro Parenzo. Perché, insomma, il Partito Democratico nel passato, non solo il Partito Democratico, ma anche molti intellettuali vicini al Partito Democratico, sì, alla sinistra, ci hanno fracassato le balle su questa storia del corpo delle donne, su questa storia del berlusconismo, del satiro Berlusconi e Concide De Gregori, eccetera. Ci hanno fatto due palle così. Adesso invece che cosa succede? Al di là della soluzione di Berlusconi, che a una a un convegno, chiamiamolo così, a una festa del Partito Democratico, a una festa dei giovani del Partito Democratico, sì, a Napoli, sì, a Napoli, chi hanno invitato? Hanno invitato Ainis, il professor Ainis, forse, no, a parlare della riforma del Senato? No, assolutamente Galli no. della Loggia. No, no, no. Angelo Panebianco per discutere dei dettagli, il Mattarello, un Porcello, un Italicum. Pensano che sia più interessante parlare di gnocca, parlare in realtà ti ha invitato te allora? No, no, no, hanno giustamente invitato una pornostar. Non è vero. Sì, è vero. Che si chiama Lisa Torrisi. Buonasera. Ma dai. Buonasera. Come sta, signora Torrisi? Ecco. Ma io benissimo. Ma lei è un'esperta ma lei è un'esperta dello scorporo, ad esempio? No, lei è un'esperta di legge elettorale, signora Italicum? Torrisi? Assolutamente no, ecco. Ci mancherebbe altro. Beh, cioè lei lo sa che cos'è la legge elettorale? Sa cos'è la riforma del Senato? Oppure il Senato per lei ha solamente un significato, il Senato? Ma guardi, io faccio già il mio lavoro, per quanto riguarda la politica la lascio agli altri, giustamente. Beh, ma sa, no? tutto è politica, tutto è politica nella vita, eh. A proposito di rifare il Senato, i suoi seni sono rifatti, immagino, perché qui si sta rifacendo. Assolutamente sì. Anche da poco. E diciamolo, è bello rifarsi i seni, lo dica apertamente. È bellissimo rifarsi il seno. Beh, dipende adesso. Anzi, le tette, direi. Oserei dire le tette, eh. Scusi, signora Torrisi, ma quanto porta lei con i seni rifatti? Perché qui si sta rifacendo il Senato e in realtà la signora Torrisi si rifà le tette. È bellissima questa cosa, eh. Stupendo, meraviglioso. Sono un genio. Diciamo una quarta abbondante, quasi una quinta, va? E che cosa aveva prima, scusi, signora Torrisi? Come? Che cosa aveva prima? Io avevo una terza scarsa. Erano problemi seri. Beh, a questo punto molto. A questo punto vi racconto una barzelletta che Berlusconi ha raccontato qualche giorno fa proprio, cioè, in materia. Che ne sai? Lo so, me l'ha raccontato una persona. Sapete perché i galli non hanno le mani? Perché? Perché le galline non hanno le tette. Mamma mia, ha riso la signora. Me l'ha regalata Berlusconi, due giorni fa. Due giorni fa. Arriva Parenzo a dire stronzate. Ecco. No, caro amici che amico mio, tu quei posti li hai frequentati? No, no. Signora Torrisi, ma com'erano i giovani del Partito, del Partito Democratico? Molto, come dire, attirati dalla sua presenza, molto attenti a quello che lei diceva. Mi dica la verità. Assolutamente sì, sono stati molto carini e disponibili. Beh, te credo, assolutamente. Scusi, però io ho una curiosità, signora Torrisi. Lei ha parlato di porno Sofia, il valore politico di porno Sofia, il valore politico dell'erotismo, ha parlato la signora Torrisi. Non diciamo stupidaggine. Poi la signora è anche ognuno faccia il suo. La signora è anche porno maga. Porno maga. Esattamente. Come esattamente? Io accetto che uno sia. Aspetta, fai spiegare prima cosa. Porno maga mi manda i matti a me, la parola maga, perché mi ricorda la Marchi, la signora Nobile, altra bravissima assolutamente persona. Otelma. No. Che cosa significa porno maga, signora Torrisi? Che significa? E io faccio il mio spettacolo hard con trucchi di illusionismo, quindi sono anche maga illusionista. Lei è anche maga illusionista. Ma cosa vuol dire? Esattamente sì. E quali sarebbero questi numeri da maga che lei fa quando fa i suoi spettacolini, signora Torrisi? Bisogna vederli, ragazzi, non si possono descrivere. No, certo, perché non da vedere c'è lo spettacolo. Capisco tutto questo cosa c'entri col Partito Democratico, però insomma. Beh, anch'io mi pongo una domanda, perché i giovani del Partito Democratico evidentemente hanno sdoganato. No, hanno l'ormone alto alcuni, evidentemente. Avevano l'ormone molto alto, secondo me, signora Torrisi, è vero? Ma no, ragazzi, finalmente si è parlato di qualcosa di relativamente importante, cioè nel senso che vi spiego, mi sono impappinata con le parole, scusate. Beh sì, relativamente importante non si capiva niente, è esattamente il contrario, scusate, si è contraddetta. Sono emozionata. Ma lei è emozionata, signora Torrisi, perché ho visto dei video, dei video oggi su internet che fanno paura, amica mia. Vediamo qua, forme. Torrisi, vediamo. Ma è una cosa fuori. Pazzesca, non si possono mandare in onda. Torrisi, cosa devo mettere? Lisa Torrisi. Torrisi, Torrisi Lisa, vediamo un attimo. Ma perché, signora mia? Noi già abbiamo già tanti mia. Problemi. Ho appena aperto qui Lisa Torrisi. E non mi pare che ci siano gli stucchi di Palazzo Madama qui. Non li vedo, diciamo, gli stucchi, i broccati rossi di Palazzo Madama. Non li vedo qui. Senta, ma chi è più bacchettona secondo lei, la sinistra o la destra? La sinistra, diciamo la verità. Dunque, entrata con la tana del lupo. La bacchettona sicuramente è stata per molto tempo, è stata più bacchettona, sicuramente. Chi, la sinistra? È la sinistra, sicuramente. Beh, storicamente no. Lei che ha votato per Berlusconi? Per quanto riguarda il mio settore, almeno lei, per quanto riguarda il mio settore, io parlo. Ah, certo. Per quanto riguarda la pornografia, parliamo. Certo, ma lei Berlusconi l'ha votato, sì, ovviamente, figuriamoci. Ah, io non dico che ho votato. Ma come? Nemmeno la signora Torrisi pornostar vuole dire perché ha votato. Amica mia, lei non è un magistrato, cara. Scusi. Noi ce la possiamo prendere con i magistrati quando dice, nell'esercizio delle loro funzioni. Mi dica l'ultima volta perché ha votato. Lei sicuramente ha votato per Berlusconi, io sono quasi certo. Assolutamente non lo dico. Mamma mia, guarda, incredibile. Il vabbè, sesso è c'è come una dolce illusione. Noi dobbiamo dire la verità, signora. Abbiamo il coraggio di chiamare la signora Lisa Torrisi, pornostar e pornomaga. So che ti fa andare matti, pornomaga. Nel giorno in cui ne succedono di tutti i colori nel mondo, ecco. E in Italia. Guarda questo, la buona notte di Lisa Torrisi. No, traffico. Cos'è la buona notte? Non lo so, di Lisa, cosa... Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Strade in diretta. Buonasera, c'è coda per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e il bivio per la 4 in direzione Padova, mentre sulla 4 Brescia-Padova 3 km di coda per un incidente tra Padova Est e la barriera di Mestre verso Trieste. Proseguendo poi sulla 4 Padova-Venezia ci sono 6 km di coda per un mezzo pesante fermo in corsia di marcia tra Mestre e San Donato di Piave verso Trieste. Sull'autosole 3 km di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, ancora sulla 1 code per un altro incidente tra Cassino e San Vittore verso Napoli. Sulla 14 Adriatica verso Ancona, code per un veicolo in panne tra Ancona Nord e Ancona Sud, e proseguendo in carreggiata sud ci sono code di 3 km per lavori tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto. Code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova in direzione Genova, tra la demarcazione Predosa Bettole e Vignola e Borbera. È tutto, torniamo tra mezz'ora. La Zanzara. Lucia, attenta a quello che dici. Sta l'avvocato Marra. Il signore del Bilderberg. Chiedo scusa. Aspetta. Siamo in collegamento con Lisa Torrisi, pornostar, pornomaga, che ieri, non l'abbiamo invitata a caso, ieri è stata ospite, signori miei, ascoltate, popolo della Zanzara, popolo della radio, è stata ospite dei giovani del Partito Democratico per parlare, sì, di filosofia, eccetera, per carità, di quartieri a luce rossa a Napoli, del corpo delle donne. Giustamente la signora Torrisi pensa che, ma questo è abbastanza scontato, che la donna può usare il proprio corpo come vuole, no? Come quando vuole. Cioè, assolutamente sì. È giusto guadagnare. Mancherebbe altro. È giusto guadagnare anche con la prostituzione, è giusto guadagnare anche con i film, facendo la pornostar. Cioè, non è che lei potrebbe fare la pornostar come fare la casalinga, diciamo la verità. Ma allora, prima di tutto bisogna distinguere tra la prostituzione e fare la pornostar. No, sì, certo. Questa cosa qui sono due cose completamente vabbè, diverse. Vabbè, ma certo, non c'è dubbio. Senza condannare nessuna delle due. Sì, fare sì. La pornostar, fare l'attrice hard in questo caso, io ho solo ribadito che dovrebbe essere un lavoro come un altro, quindi lo Stato ci dovrebbe tutelare. Ma in che senso, scusi, che dovrebbe, ma che vuole il patentino? Che vuole il patentino, no, lei? Assolutamente no, ma dovrebbe essere legalizzato. Ma è legalizzato, non è già. Ma non è legalizzato, ma stiamo scherzando. Ma scusi, perché lei che mica è illegale quando gira un film? In Italia sì, assolutamente non si possono percepire soldi, altrimenti si va nella prostituzione, ma stiamo scherzando. E lei come set, ma li fanno all'estero, ce lo spiegava. Sì, molti set all'estero, sì, però in realtà anche in Italia si girano dei film, non è che non si. Non lo so io, tu lo sai. Questo vabbè, lo dice lei. Ma si girano però lo stesso. Signora, non che io stavo guardando la sua filmografia, che non è esattamente quella di Luchino Visconti né di Fellini. Leggo qui un titolo che è Il Cavalier non porta pene. Leggo bene? Esattamente. Ah, è un film. Ecco, Bunga, non è Bunga domicilio. Ah, si chiama sottotitolo Bunga Bunga domicilio. Lei è contenta della soluzione di Berlusconi, signora pornostar? Ma assolutamente, se la legge ha fatto il suo decorso ci mancherebbe altro. No, ma dico, è contenta che non siano state punite le avventure del Bunga Bunga dal punto di vista giudiziario? Sì, immagino di sì. Ma sì. sì, sicuramente. Ma lei è molto diplomatica, signora Torrisi, eh? Non abbia paura di esprimersi, non è mica un tribunale, non sono io la Boccassini. Ho paura di esprimermi. Non sono la signora Boccassini, non è che mi ha preso la signora Boccassini. Scusi, io non sono la persona più lontana dalla signora Boccassini, non c'è persona in Italia, credo, più lontana del sottoscritto dalla signora Boccassini. Ero distratto un attimo dal trailer di questo film della signora. Ma ti stai vedendo un film porno? Chiedo scusa. No, scusate, la cosa è questa. Parenzo si sta vedendo un film porno in diretta qui alla Zanzara alle 18:52. Mi sto documentando sulla Biblia, sulla biografia della signora che non ha, ecco, il curricula, diciamo, di Sergio Leone. La sua, ecco, vita qua potrebbe avere una svolta in queste ore, non la vita della signora Torrisi, sì, la vita di Parenzo. Scusi, lei ha mai frequentato dal punto di vista sessuale un uomo politico? Non si dice. Vabbè, basta dire. Vabbè, ma allora chiudiamo il telefono. Ma se siamo a no comment, ragazzi, no comment lo può fare Schifani, Grasso lo può fare. Scusami, signora mia. Ho tante amicizie, io conosco tanta gente, quindi anche sì, politici, perché no? Lo so, certo. Dunque, è andata, cioè, voglio dire, no, ha frequentato uomini politici, no? Immagino. Ma certo, ci mancherebbe. Oh, beh, ci mancherebbe. Tante persone. Eh sì, ma certo, scusi. Ma qualcuno di questi politici si è mai innamorato di lei, signora Torrisi? Ah, non lo so, questo è da chiedere a loro. Vabbè, siamo veramente a no comment, cioè è veramente imbarazzante. Sembra di intervistare Casini a me, Pier Ferdinando. Lei è peggio di Casini, cioè sembra un politico del democristiano. Cioè, se mandassi in onda quello che lei... Un politico, no, dai. Beh, ma